alta voce. Patrizia Zappa Mulas legge I padri lontani di Marina Jarr. Undicesima puntata. Nelle mie amicizie esercitavo un'attività di sensale o di stregone del villaggio a seconda delle occasioni. Nutrivo fedeltà appassionate ma ombrose. Ritrovo molti nomi nel mio diario e facilmente mi sentivo tradita. Lasciavo allora cadere l'amico e mi ritiravo nei miei bronci delusi. Da mia sorella mi stavo lentamente separando. Lei mostrava di non sopportare quelle che chiamava le mie pose da commediante, il modo strambo e involuto con il quale accostavo le questioni, i miei slanci donchisciotteschi frenati da viltà e timidezza. E io ero ferita dai suoi commenti brutali, soprattutto al mio aspetto. Di lei sentivo sempre più spesso lodare la nascente bellezza. Se un ragazzo mi piaceva, lei me lo portava via con la sua sola presenza, senza fare un moto. Era appunto la sua impassibile immobilità a schiacciarmi. Io continuavo sempre ad arrabattarmi. Lei stava immersa nel suo fascino di pigra crudeltà, gli occhi fermi, lucidi, pieni di ferocia altera. La mia gelosia, come nella mia infanzia, non intaccava la solidarietà che provavo nei suoi confronti. Non si rapportava soltanto a lei, di cui mia madre taceva, illuminandosi in volto. Ma era un sentimento, direi, fatale, radicato. Le mie sconfitte mi immergevano in una malinconia originaria e per lunghi anni qualsiasi allusione alla sua bellezza o eleganza, ma anche al successo di qualcun altro, mi riempirono sino all'orlo di una mortale tristezza che sulle prime mi spingeva a rinunciare, a sprofondare ancora una volta sotto il ghiaccio del mare invernale di Riga. Poi riemergevo e mi davo di nuovo da fare. Agli amici davo consigli, ascoltavo confidenze, gli innamorati delusi di mia sorella, che non era facile nelle sue scelte, venivano a raccontarmi le loro pene d'amore. E qualche volta rivendevo qualche confidenza per averne delle altre, ma soprattutto facevo ricognizioni su me stessa, su quel che si pensava di me. Leggevo di straforo le lettere che si scrivevano in casa, cercavo di sorprendere conversazioni. Ero sempre sicura di trovare apprezzamenti lusinghieri sul mio conto quando coglievo una missiva incustodita sul tavolo. E se invece delle lodi trovavo giudizi negativi, il che accadeva più delle volte, godevo anche di quelli, alimentando i miei atteggiamenti di serena solitaria. La citazione del mio diario, dove la trovo già tra virgolette ironiche. Avevo già 20 anni quando, entrando un giorno nella camera di mia madre, vidi sullo scrittoio una lettera già completa di saluti e di firma, redatta nella sua bella, chiara scrittura. Tuttora la vista di un qualsiasi scritto suo mi commuove, come se con la sua scrittura io avessi rapporti più intimi che con lei stessa. In quel periodo, finita la guerra, era ripresa la consuetudine delle recite. In una commedia mi era toccata una parte importante, un ruolo comico patetico. Superato il terrore dell'entrata in scena, avevo riportato un autentico successo. L'indomani qualcuno mi aveva persino fermata per la strada, congratulandosi con me. Giaceva dunque la lettera sullo scrittoio, piena di lodi entusiastiche per me. Incominciato a leggerla, vi trovai invece una lunga e insistita, ben mezza pagina, descrizione di mia sorella, che in una parte di comparsa in un'altra recita era passata fuggevolmente sul palcoscenico in parrucchino bianco e costume goldoniano e, voltata la testa con qualche impaccio verso il pubblico, aveva chiesto con il suo lieve difetto di pronuncia della S: «Ma dov'è la baronessa?» Ritta davanti allo scrittoio, con la lettera in mano, ero rimescolata da delusione, trionfo, ti ho in mano, stupida, te con la tua predilezione sempre negata, ma soprattutto sbigottimento. Il tono invaghito con il quale mia madre scriveva di mia sorella il modo diffuso, così diverso dalla sua consueta silenziosa cautela, mi apparvero innaturali e temibili. Non c'era ottimismo mio che potesse superare questa impietosa conferma. Naturale era la solita esosità con la quale mi rifiutava le sue lodi, si trattava di educarmi, ma mostruosa la brutale innocenza con la quale mi cancellava sulla sua pagina, negandosi qualsiasi speranza su di me. Mentre uscivo dalla stanza, a chi rivelare la cosa senza svelare anche la mia indiscrezione, mi sorprese a un tratto un virgolettato ironico sogghigno, quasi un empito di gioia. C'è sempre qualche segreto da scoprire nell'animo e nel cuore degli altri, ahimè. Smisi a poco di sbirciare lettere altrui. Mi piacciono sempre epistolari e diari. Accontento forse così una residua curiosità guardona. Ritirata a godere la mia serena solitudine, leggevo e fantasticavo moltissimo. Mi poteva accadere di non uscire per settimane dal cancello durante le vacanze. D'estate mi permettevano di stare da sola nella stanzetta sotto il colmo del tetto. Mentre mi stallavo con i miei libri, nell'odore caldo e polveroso delle pareti di legno, ero divisa tra la soddisfazione di potermi persino chiudere a chiave e il ribrezzo dei rondoni che nidificavano tutto intorno. Li sentivo arrivare sbattendo le ali, posarsi con tonfi pesanti, e vagliavo se non mi convenisse invece affrontare i quotidiani litigi con Zisi nella nostra stanza comune. Le notti però, profumate di fieno, scintillanti di stelle, immense sulla mia testa affacciata alla finestrella dell'abbaino, mi riempivano di trasporto. Sentivo in me energie gigantesche, ancora chiuse, è vero, nella stretta della mia volontà, ma non diluite e placate nello scorrere di un vero presentimento, ma già pronte al volo. Fantasticavo per ore, camminando avanti e indietro sul balcone, in inverno, sul pianerottolo del primo piano. E l'eroina delle mie fantasticherie era bellissima, bellissimo pure l'eroe, in cui con uguale fervore mi immedesimavo. Ma ciò che mi trasportava nelle notti estive al di là della mole oscura delle montagne e del romorio ininterrotto del torrente era l'accostarsi della realtà, che pure temevo e dalla quale cercavo di isolarmi. Scrivevo nel mio diario: ho paura della donna che sto per diventare, che fatalmente diverrò se nulla interromperà il necessario evolversi della mia vita spirituale. La sento già viva in me e ogni giorno diventa più matura e completa. Anche le gite in montagna mi davano la stessa sensazione in cui mi esaltavano insieme timore e avidità. Dopo aver attraversato gli ultimi pascoli, mettevo i piedi, nudi dagli scarponi, nell'erba corta, dura e profumata della sosta. Salivamo verso lunghe creste pietrose, asciutte di sole e di gelo. Erano le nostre cime e si rassomigliavano tutte. I sassi scivolavano dai nostri passi verso i canaloni sottostanti. Ero generalmente tra i primi ad arrivare e tra gli ultimi nella discesa. Le mie lunghe gambe non reggevano nelle caviglie appena protette dall'orlo degli scarponi e prendevo continue storte scendendo. Per me una meta valeva l'altra. Mi agitavano, durante la gita, pensieri violenti che talvolta diventavano emozioni. Arrivare tra i primi, scendere tra gli ultimi, parlare con il ragazzo che amavo, ma soprattutto sempre la vita. Con il nascere e con il morire, e io che cosa ci facevo? Come se le pietraie assolate che si sbriciolavano sotto i miei scarponi in schegge sempre più fini via via che ci avvicinavamo alla vetta fossero uno di quei simboli che mi affascinava ritrovare recitati. Parlando con mia madre vecchia, ho cercato di rintracciare gli itinerari di queste escursioni, ma fuorché appunto le montagne, non riconoscevo i luoghi, i villaggi, i pascoli, il laghetto. Lei vi si aggirava con agio. Quella borgata era la tale, In quell'altra si era fermata con il padre che la conduceva in gita e che le aveva insegnato a battere con il bastone il terreno per scacciare le vipere. Citava i nomi non soltanto con la sua infallibile precisione geografica, le vocali angrognine esatte nella pronuncia, ma anche come nomi di luoghi, di strade, di ponti, ognuno diverso dall'altro e in ognuno una memoria diversa dall'altra. Per me la memoria era una sola, nuda e dura, come la pietraia. La necessità che avevo degli altri, per superarli camminando, per dargli la mano, per parlargli, per toccarli, e la mia inferiorità nei loro confronti. Scrivevo nel mio diario: ho bisogno di esercitare la mia personalità sugli altri, o in opposizione quando non riesco a dominarli, o in rapporti di amicizia dove io sono la più forte. Ritornavo dalle gite come si ritorna da un'avventura definitiva. E mentre trascinavo i piedi dolenti sugli ultimi chilometri di stradone, cadevo spesso in una depressione abissale. Ancora una volta non ero riuscita a raggiungerli. Non c'era, a dire il vero, un divario tra le mie fantasie e l'attuarsi di quella realtà insieme temuta e vagheggiata, ma tutto al più contrasto tra le mie ambizioni e l'implacabilità che ne condizionava la riuscita. Ma per il resto, la forza e l'intensità con la quale mi rappresentavo la vita e godevo delle rappresentazioni della vita, e la forza e l'intensità con cui vivevo e cercavo di impormi, erano ambedue pulsioni del mio io, e non soltanto non si combattevano, ma coesistevano senza alcuno strazio schizzoide e senza alcuna aderenza siamese. Come già da bambina mi travolgeva la bellezza delle bugie che inventavo ma che non confondevo mai con la realtà, così in seguito sono vissuta indossando di volta in volta le mie diverse paia di stivali, ora facendo le sette leghe, ora solo i due pollici. Però il balzo immenso delle mie sette leghe non soffriva della lunga pazienza dei miei due pollici. La coesistenza parallela di pratica e immaginazione, a me congeniale, ha intricato i miei rapporti con gli altri. Avrei voluto essere accettata nella mia completezza e di volta in volta continuavo a stupirmi e perciò a isolarmi, che per essere accolta io mi dovessi ridurre, rinchiudere, castrare. Forse per questo mi pareva di ritrovare una mia unità recitando, essere inoltre finalmente simpatica tutta intera. Che però ogni tanto mi cogliesse una nostalgia di riunione, di ritorno, la chiamo tra di me, e ancora una volta questa Sehnsucht, questo struggimento, diventa nostalgia liturgica di ritorno sulla spiaggia luminosa e immensa dell'infanzia. E non solo, ma che a tale vagheggiato armistizio con gli altri io abbia dato forma di privilegio, nome di scelta, era conseguente. A scrivere incominciai relativamente tardi. Scrissi dapprima alcune poesie, di cui ne ho conservate soltanto due. Tenevo un diario per raccontarmi a me stessa. Quando avevo 18 anni, era considerato disdicevole avere, per qualsiasi motivo, difficoltà psicologiche. La parola non si adoperava. In una mia lettera a mia madre trovo solo psichico. Non parliamo poi di chi avesse per caso il famigerato esaurimento nervoso, peggio della sifilide. L'occuparsi di sé, riflettere sui propri contrasti, era segno di carattere ambiguo e, naturalmente, debole. Sempre a 18 anni mi ero messa a scrivere, insieme con un'amica, un dramma. Ero allora immersa in una nausea generale verso la lettura. Avevo letto, negli anni precedenti, la biblioteca del nonno, quasi tutti i testi francesi, e qualsiasi libro o pagina mi fossero capitati tra le mani. La nonna, che aveva esiliato sull'ultimo scaffale Zola, ritenuto pericoloso, lessi Nana in piedi sulla soglia della sua camera, non avendo ancora scoperto l'uso della pila per illuminare la notte sotto le coperte i libri proibiti. La nonna mi concedeva i romanzetti rosa, che mia madre invece stimava ripugnanti. La mamma mi lasciava leggere qualsiasi libro, purché fosse un libro d'autore, un buon libro. Rammento di aver letto, accoccolata davanti alla stufa accesa nella sua camera per un suo soggiorno natalizio, dal principio alla fine, Les femmes galantes di Brantôme, accolsi un mal di denti capitatomi al termine della lettura come la meritata punizione divina. Tra le proibizioni dell'una e dell'altra lessi dunque ogni testo leggibile della casa, fuorché i numerosi libri di geografia. Così, leggendo, scopersi che Don Carlos aveva la gobba. Sgradevole scoperta, perché non sopportavo ancora le gobbe della storia. Trovai anche sul referto di autopsia di Napoleone che egli aveva gli organi genitali piccoli. Ignoravo tutto in proposito, avendo mancato, a causa del lontano tradimento del mio amichetto finlandese, l'occasione per informarmi, mentre la sapevo lunga proprio dalle femme galante sulle misure di quelli femminili. Intravidi però come un disappunto, uno stupore nella constatazione che un così grande uomo avesse gli organi genitali piccoli, che non era bello, insomma. D'altronde non amavo Napoleone, amavo Athos, come non amavo Luigi XIV o Alessandro il Grande. Ero attratta dal grande tramestio di popoli, dalle fanfare, dal galoppo della cavalleria nella notte, dalla folla radunata nel Duomo a cantare il Te Deum, dal tumulto che accompagnava e circondava il loro comparire, dal remue-ménage, dal trambusto, avrebbe detto la nonna, che amava sminuire chiunque, ma soprattutto i grandi uomini. A me non spiaceva vederli in berretta da notte, purché mi si potesse dimostrare che anche in berretta da notte meritavano fanfare e inchini. Ed ero divisa tra l'odio per la grande armata inghiottita dalla neve russa e l'ammirazione per i pontieri francesi che, immersi nella gelida Beresina, avevano permesso con il loro ininterrotto lavoro di riparazione la fuga dei compagni sul ponte di legno. Non riuscivo mai a stare risolutamente da una parte, poiché ben presto i vincitori diventavano i vinti e mi toccava cambiare bandiera. Leggevo Jules Verne, ma non mi interessava la geografia. Forse ero persuasa che la si potesse facilmente inventare. Del resto, non mi sono forse sempre aggirata per città sconosciute con l'intuito topografico di chi le avesse progettate e costruite lui stesso? Il battito delle ruote d'un treno nella notte mi riconduce tuttora a sensazioni di infanzia. Ecco pianure, montagne, fiumi. Ecco le luci delle stazioni dove sosta il rumore del viaggio. Le città a cui giungo e da cui parto sono sempre una stazione. Mentre passa il treno, ecco diventare anonimi montagne, fiumi, pianure. Ecco laggiù, dietro le finestre illuminate, altri nella loro precaria e illusoria immobilità, poiché anch'essi sono sul treno e viaggiano con me. No, non mi importava della carta geografica, banale surrogato dell'invenzione, o più semplicemente negavo il cambiamento, la trasmutazione, per una specie di pigrizia, la stessa che mi aveva sorpresa nell'imparare una lingua dopo l'altra e che mi aveva impedito di riconoscere il nome dei Roma in quello così ovvio dei Romani. Ogni lingua aveva le sue intraducibili e non intercambiabili qualità. In ogni lingua ero diversa, ogni lingua al suo tempo. Ricordo il terribile senso di impotenza che provai una volta nei primi mesi a Torre Pellice, quando incontrai al pian terreno un operaio che mi chiese della nonna. Capii il senso della domanda, ma non fui capace di spiegargli che la nonna era di sopra, in camera sua. Le parole mi giacevano morte in bocca. Ero paralizzata tra una vita e l'altra. Per alcuni anni nessuna lingua mi apparve particolarmente bella. Tutte le lingue servivano. Anche quando in seguito mi fui abituata all'uso scolastico dell'italiano e incominciai a divertirmi con i miei componimenti, pur essendomi rimasti per sempre alcuni dubbi ortografici e sintattici dovuti al fatto che avevo imparato quasi contemporaneamente il francese e l'italiano, anche in italiano mi limitò una, direi, mancanza di adesione interiore ai mezzi tecnici della lingua. Non riuscivo, per esempio, a recitare proprio perfettamente, nonostante la mia buona memoria, una poesia italiana. Talvolta mi accorgevo che una frase scorreva meglio d'un'altra, ma non sapevo perché. Ricordo benissimo quando mi accorsi che le parole collocate in un certo modo, secondo una necessità assoluta, erano belle. Rileggendo per l'ennesima volta il Don Carlos, leggevo e rileggevo i libri che mi colpivano, me li portavo dietro dovunque, non mi importava il nome degli autori, saltavo selvaggiamente le pagine che non mi interessavano. Leggendo dunque di nuovo il Don Carlos nell'edizione scolastica su cui l'aveva studiato mia madre al magistero, lessi del principe che rivede per l'ultima volta Elizabeth e le dice: So sehen wir uns wieder. Così ci rivediamo. Ripetevo la frase e mi commuovevo. Sentivo una piccola pausa dopo il so e il prolungarsi verso la morte del finale Vidar. Non mi commuovevo perché il principe stava per morire, avvenimento consueto ai drammi, ma per l'ineluttabilità per cui le parole erano unite e separate tra di loro, quelle parole e quel modo. Poi venne il tempo dell'italiano, tardi appunto. Dei testi letti a scuola ricordo di aver riletto più volte il duello di Tancredi e di Clorinda e la chiusa del principe. Solo all'università, avendo udito Pastonchi recitare il 26esimo dell'Inferno, ebbi un'illuminazione su Dante. Patrizia Zappa-Mulas ha letto I padri lontani di Marina Jarre. A cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.